di Simone Spezia. Sciopero generale di CGIL e UIL il 12 dicembre. La CISL non ci sta, mai valutata come opzione. Il ministro Poletti, per questo sciopero non ci sono motivazioni. Israele inizia a reagire dopo l'attacco di ieri ad una sinagoga. Demolita a Gerusalemme la casa del palestinese che investì e uccise due pedoni. Resta alta la tensione intorno alle occupazioni abusive di Milano. Stanotte incendio doloso in una sede dell'ALER, l'Agenzia Regionale per le Case Popolari, varato ieri il piano per gli sgomberi. All'Inferneto, periferia di Roma, dove sono stati trasferiti i rifugiati da Tor Sapienza, scontri all'interno del centro per immigrati. Marino intanto vara un rimpasto di giunta soft, ma il partito non sarebbe soddisfatto. Gli insegnanti di Acerra contro il film La scuola più bella del mondo, per il professore interpretato da Rocco Papaleo. Lui si scusa, sarà ospite nostro tra poco. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre i contatti. Effetto Giorno, @radio24.it, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno e naturalmente il numero di SMS se volete scriverci in diretta, il 349-238-6666. Vertice dei sindacati dunque oggi per decidere lo sciopero, la UIL si unisce alla CGIL, la CISL ne resta fuori almeno parzialmente, ci racconta tutto Alessandra Schevisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Contro il Jobs Act e la legge di stabilità scenderanno in piazza solo CGIL e UIL, non più il 5 dicembre ma il 12. Dunque non ci sarà il ponte lungo dell'Immacolata che tante polemiche aveva scatenato, ma un ponte più breve visto che si tratta sempre di un venerdì. Tutto ciò è emerso da una riunione che i tre leader sindacali hanno avuto questa mattina a margine del congresso della UIL. Sentiamo allora Susanna Camusso, CGIL. Abbiamo discusso con CISL e UIL, preso positivamente visione del fatto che la UIL ha deciso nel suo esecutivo di proclamare uno sciopero generale sui temi della legge di stabilità, del Job Act, dei temi che abbiamo aperto con il governo, e registrando questa importante convergenza abbiamo convenuto di fare lo sciopero generale di una giornata con manifestazioni territoriali il 12 dicembre. Ma c'è tensione tra i sindacati. La CISL non aderisce allo sciopero generale. L'annuncio sarebbe arrivato tramite la stampa prima del vertice di questa mattina, una mossa scortese per la CGIL, ma la leader della CISL, Anna Maria Furlan, smentisce mai considerata questa possibilità. Sentiamo. La CISL conferma la posizione che ha espresso un mese fa, quando la CGIL aveva dichiarato il suo sciopero generale, e stamattina quando anche la UIL ha dichiarato che farà sciopero generale, e cioè che non ritiene che lo sciopero generale oggi sia lo strumento per arrivare agli obiettivi che noi ci diamo. Quindi confermiamo che noi non faremo sciopero generale. E poi c'è il nodo statali, lo sciopero sarà unitario ma sulla data nessuna certezza. Nel pomeriggio si riunisce l'esecutivo nazionale, dice Furlan, e lì la CISL deciderà le sue forme di mobilitazione, mentre per Susanna Camusso lo stop del pubblico impiego potrebbe convergere il 12 dicembre. A questo punto bisognerà vedere se i sindacati riusciranno ad accordarsi. E intanto dal governo arriva l'attacco del ministro del lavoro Poletti, secondo il quale non ci sono le motivazioni per uno sciopero generale. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepesi. Intanto nel mondo politico e nel Partito Democratico si continua a discutere tanto di riforma del mercato del lavoro quanto di legge di stabilità. A Montecitorio la Commissione Lavoro si appresta a dare il suo via libera al Jobs Act. Il testo dovrebbe arrivare in aula domani. Il voto finale da parte della Camera dei Deputati è atteso invece entro il 26 novembre, un obiettivo che sembra a portata dopo l'accordo raggiunto nella maggioranza sull'emendamento presentato dal governo che ridisegna in particolare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il reintegro resta soltanto per i licenziamenti discriminatori e per alcune fattispecie di licenziamenti disciplinari ingiustificati. Una soluzione che, dopo i malumori dei giorni scorsi, sembra aver soddisfatto sia la minoranza del Partito Democratico sia il nuovo centrodestra. Per il governo, però, sono già in vista altri nodi da sciogliere. La sinistra Dem annuncia infatti battaglia anche sulla legge di stabilità, che è all'esame della Commissione Bilancio della Camera. Oggi il vice ministro all'economia, Morando, ha fatto sapere che la platea dei beneficiari del bonus da 80 euro non verrà modificata, come chiedono invece alcuni emendamenti presentati proprio dalla minoranza democratica. Il governo governo è invece disponibile a rivedere parzialmente la struttura del bonus bebè per renderlo più efficace per i minori poverissimi o in povertà assoluta, poi aggiunto Morando. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Abbiamo parlato molto di riforma del mercato del lavoro e di mercato del lavoro. Nel frattempo si tratta al Ministero per i lavoratori delle acciaierie speciali Terni. Una trattativa lunghissima, andata avanti tutta la notte, per il futuro delle acciaierie di Terni al Ministero dello Sviluppo. Così, dopo una breve pausa, sindacati, azienda, governo, questa mattina, attorno alle 10.45, sono tornati a ritrovarsi attorno a un tavolo. L'obiettivo è trovare entro oggi un accordo sulla base di quanto si è definito nel corso della lunga notte e che Stefano Garzuglia della FIOM AST ci riassume così. Siamo a un punto che bisogna approfondire ancora tutte le questioni. La parte dell'integrativa abbiamo fatto una proposta all'azienda, ancora diciamo che piena trattativa, quindi le posizioni sono tutte quante da verificare e da valutare. Il nodo dunque, che sarà discusso questa mattina, riguarda i salari e l'integrativo. Nella notte infatti, proprio su questo argomento, l'amministratore delegato di AST, Lucia Morselli, ha chiesto tempo per fare una verifica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è un'altra azienda nella quale stanno andando avanti le trattative per gli esuberi, per la crisi aziendale, ed è Meridiana. Ebbene, l'amministratore delegato Roberto Scaramella si è dimesso dall'incarico e dalle altre cariche ricoperte nel gruppo. Ne ha dato notizia la stessa azienda, parlando di dimissioni per motivi personali. Dietro tutto questo ci sarebbe però appunto questa trattativa sui 1634 esuberi annunciati dalla compagnia. Secondo quanto si è appreso e quanto riferiscono le agenzie di stampa, tra il manager e l'azionista di controllo, il fondo ACFED del principe Aga Khan, sarebbero emerse profonde divergenze sulla linea del risanamento del vettore. All'estero, il giorno dopo l'attacco terroristico a Gerusalemme, inizia la reazione di Israele. Nel quartiere Har Nof questa mattina i fedeli sono tornati nella sinagoga. Alla stessa ora della strage sono iniziate le preghiere del mattino, per ricordare chi non c'è più e forse anche per esorcizzare la paura, per trovare conforto nella propria fede. Ieri due giovani palestinesi hanno fatto irruzione con armi da fuoco e coltelli, 4 i rabbini uccisi e un poliziotto morto a tarda sera per le ferite riportate. Le condanne sono arrivate da Europa e Stati Uniti, condanna da parte di Abu Mazen. Hamas invece ha distribuito dolci per festeggiare. Gerusalemme fronteggia un'ondata di terrorismo, ha dichiarato il premier Netanyahu. Reagiremo duramente. Nella notte l'esercito e la polizia israeliani hanno distrutto la casa di un palestinese ritenuto il responsabile dell'attentato in cui morirono il 22 ottobre scorso un neonato e una giovane donna. Le demolizioni come strumento di dissuasione, ha affermato Netanyahu. Ma Gerusalemme è solo uno dei focolai della tensione. Alcuni spari sono stati esplosi questa mattina dalla striscia di Gaza verso una stazione militare israeliana al valico di Erez. Un altro incidente è avvenuto nei pressi di Khan Yunis. Al confine tra Egitto e Striscia, 10 civili sono stati uccisi nei combattimenti tra l'esercito egiziano e milizie islamiche. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In India, 5 donne e un bambino di pochi mesi sono morti durante violenti scontri tra la polizia e i seguaci di una setta religiosa nel nord del paese. Gli incidenti sono avvenuti nell'ashram di Baba Rampal, un guru indiano ricercato per omicidio a circa 170 km da New Delhi. Da alcuni giorni migliaia di seguaci si sono asserragliati nel complesso religioso per impedire alla polizia di arrestare il loro leader. Il PM di Milano, Fabio De Pasquale, ha disposto alla scarcerazione dei 3 giovani arrestati ieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale a seguito degli scontri con le forze dell'ordine nel quartiere Corvetto a Milano, dopo lo sgombero di 2 centri sociali. Da quanto si è saputo, la procura ha disposto la liberazione dei 3 giovani perché ha considerato le accuse a loro carico come fatti di lieve entità. E a proposito di questi fronti di tensione che riguardano anche l'occupazione abusiva delle case popolari, questa notte c'è stato un incendio in una sede dell'ALER, l'azienda regionale che gestisce appunto le case popolari. Si sospetta una bomba carta e sicuramente l'incendio è doloso. Questo è quello che si è appreso dalle forze dell'ordine. Torneremo a parlarne tra poco proprio con il presidente dell'ALER. Anche la droga era al centro degli interessi del clan mafioso capeggiato dal boss latitante Matteo Messina Denaro. Emerge, tra l'altro, dall'operazione antimafia Eden 2 che è stata condotta dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Trapani. Questa mattina questa inchiesta ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 16 affiliati alla cosca. L'operazione ha portato all'arresto, tra gli altri, del nipote del boss latitante, Girolamo Bellomo, detto Luca, 37 anni. L'analisi di Nino Amadore, del Sole 24 Ore. Non c'è dubbio che l'operazione del ROS di stamattina dà un colpo molto forte al clan di Matteo Messina Denaro. Vedremo se è vero, come si suol dire, che si stringe il cerchio sul potente latitante. Ma intanto, se mai ve ne fosse bisogno, l'operazione Eden 2 conferma ancora una volta quella che appare ormai come la strategia della famiglia mafiosa di Castelvetrano. Ricostituire quadri dirigenti, trovare denaro per sostenere la latitanza del boss che si conferma capo indiscusso di tutto. E colpisce molto la strategia di questo nuovo capo in pectore, almeno secondo gli investigatori. Girolamo Bellomo è marito di una Guttadauro che oggi è avvocato penalista, cognato di Francesco Guttadauro, il nipote prediletto di Matteo, arrestato l'anno scorso. E questa volta non c'è solo l'impegno a trovare denaro per colmare vuoti creati dai continui sequestri, ma c'è quello che appare un vero e proprio disegno criminale: ricostituire il sistema di alleanze tra la mafia trapanese, quella di Brancaccio a Palermo e quella di Bagheria, nel nome della famiglia, i Guttadauro Messina Denaro. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. 8 persone indagate, sequestri in 5 regioni per 22 milioni di euro. Sono i frutti di un'operazione della Guardia di Finanza di Roma per la vicenda di alcune cooperative di facchinaggio ed SRL con sede in Gran Bretagna che avrebbero omesso il pagamento di tasse per 45 milioni. Tra i truffati ci sarebbero gli oltre 2.000 operai, visto che i protagonisti e gli indagati compravano ville, yacht e auto di lusso appropriandosi delle ritenute previdenziali proprio dei dipendenti. Un'altra notizia di questa mattina riguarda la vicenda di un pirata della strada. Un anziano di Castellabate, provincia di Salerno, ieri è stato investito. La donna che era a bordo dell'auto è fuggita. Ebbene, si è appreso questa mattina che, a quanto risulta dagli investigatori, si tratterebbe, la persona che ha investito l'uomo sarebbe il vice sindaco di Castellabate in provincia di Salerno, si chiama Luisa Maiuri. Queste le notizie. Il sindaco per il momento la difende e dice sarà in grado di spiegare tutto. Passiamo al calcio per parlare della nazionale, della sua amichevole di ieri contro l'Albania, ma anche, Carlo Genta, dei bei tifosi albanesi di ieri. Sì, bellissima, ciao Simone, ciao a tutti, bellissima cornice di Genova, strepitosi tifosi albanesi al di là di quelle invasioni di campo innocenti, innocue, pittoresche, ma che andrebbero comunque evitate, soprattutto sì. Comunque gioiose, diciamo. Sì, certo, gioiose, nulla a che vedere con quanto abbiamo visto domenica sera, però sai, eravamo un po' tutti sul chi va là, perché abbiamo ancora negli occhi le immagini di Italia-Croazia. Non è successo ovviamente nulla di tutto questo. Gli albanesi sono stati, il tifo albanese è stato strepitoso, era d'altra parte un'occasione, una partita che gli albanesi aspettavano da sempre, hanno fatto un'eccellente figura nei confronti di una nazionale italiana molto molto sperimentale, totalmente sperimentale, che ha vinto 1-0. Conte fa 5 su 6, 5 vittorie e un pareggio nella sua avventura fin qui, segna un debuttante, cioè Okaka, giocatore della Sampdoria, in casa sua e dunque è finita in questo modo. È chiaro che a tenere banco non è tanto quello che è successo in campo per questa amichevole, quanto le parole di Conte, che ha bacchettato l'intero calcio italiano da vari punti di vista, non solo Balotelli, scaricandolo di fatto, dicendo non ho tempo per rieducarlo, al fatto che i club non aiutano la nazionale, che i giovani non hanno voglia di faticare, insomma sono un po' cose già viste, già sentite. Non dobbiamo però dimenticare che Conte fino a 80 giorni fa stava dall'altra parte, quindi adesso fa il censore, ma fino appunto a 3 mesi fa era l'allenatore della Juventus e anche lui aveva avuto i suoi bravi problemi con il suo predecessore Cesare Prandelli. Comunque resta questo risultato, 1-0 per l'Italia, e di nazionale si torna a parlare tra 4 mesi e sicuramente però tra poco meno di un'ora, alle 14, naturalmente in tutti i convocati con Carlo Genta e come sempre le vostre telefonate all'800 24 00 24 per tutti i convocati. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sciopero generale di CGIL UIL il 12 di dicembre, la CISL non ci sta mai valutata come opzione, anche se si sta ragionando sul far fare lo sciopero ai dipendenti pubblici della CISL in quella giornata. Il ministro Poletti: per questo sciopero non ci sono motivazioni. Israele inizia a reagire dopo l'attacco di ieri ad una sinagoga demolita a Gerusalemme, la casa del palestinese che investì e uccise due pedoni. Resta alta la tensione intorno alle occupazioni abusive a Milano, incendio doloso in una sede dell'ALER, l'Agenzia Regionale per le Case Popolari. All'Inferneto, periferia di Roma, dove sono stati trasferiti rifugiati da Tor Sapienza, scontri all'interno del centro per immigrati. Poco fa circondati a San Basilio dei poliziotti che stavano procedendo ad un arresto. Insegnanti di Acerra contro il film La scuola più bella del mondo per il professore interpretato da Rocco Papaleo. Lui si scusa, sarà ospite nostro tra poco. Ma il nostro primo ospite è Gian Valerio Lombardi, presidente dell'ALER, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno Lombardi. Buongiorno a lei. Innanzitutto le vorrei fare una domanda sull'episodio di questa notte. Abbiamo sentito un incendio doloso, lo sentivano i nostri ascoltatori dai titoli, in uno dei vostri uffici. Che cosa è successo esattamente? Che cosa ne sapete naturalmente? Guardi, da quanto ci risulta, in via Inganni, dove noi abbiamo una sede, è stata lanciata una bomba carta che ha praticamente creato dei problemi alla filiale che adesso stiamo cercando di mettere a posto. Ecco, quindi c'è stato un principio di incendio che è stato subito domato e quindi abbiamo segnalato il fatto alle autorità e abbiamo aumentato la vigilanza in questo ufficio e anche negli altri della nostra azienda. In quella zona, se non ero Lombardi, c'erano già state tensioni per uno sgombero. Sì, infatti è proprio la zona dove recentemente c'era stata una serie di interventi per, diciamo, contrastare questa tendenza alle occupazioni abusive che, come lei sa, per l'azienda costituisce un problema oltre che un danno e oltre che una sottrazione, diciamo così, di disponibilità agli inquilini che hanno titolo ad entrare. Ecco. Siete preoccupati a questo punto? Ma guardi, noi stiamo facendo un'azione un po' a 360 gradi, nel senso che per mettere a posto l'azienda stiamo cercando di fare parecchie azioni insieme. Ecco, una cosa che mi premeva chiarire è che tutti questi alloggi che noi effettivamente a volte non riusciamo ad affittare non li teniamo così per cattiva volontà, senza utilizzo, ma soltanto perché non abbiamo le risorse necessarie per metterli a posto. Allora, su questo io vorrei tornare. Intanto la nostra Anna Marino, che ieri ha seguito anche gli scontri che ci sono stati, ha fatto un giro tra alcune case ALER, ha intervistato alcuni degli occupanti, sentiamoli. Venite a parlare con i cittadini, perché abbiamo bisogno di aiuto, si stanno facendo passare come bestie e noi bestie non siamo, abbiamo dei figli, siamo madri di famiglia, lavoriamo, stiamo solo cercando di avere un contratto, pagare l'affitto, chi non paga vada fuori, ma chi paga che sia dentro, aiutate, vi prego. Loro, quando la polizia entra in casa, va direttamente in bagno, spacca tutti i sanitari in modo che la casa sia inagibile e viene dentro. La casa è inagibile, dovete andarvene. Non è vero. Quindi in casa non deve entrare nessuno. Perché per l'ALER la casa è inagibile, sono i sanitari. I lavori ci sono annunciati di ristrutturazione. Ma eseguiti, sospesi, fallito tutto. Non è giusto tutto il casino che stanno facendo, però la casa è un diritto, giustamente. La gente ha bisogno. Anche mia figlia ha 6 anni che aspetta la casa. E purtroppo. E queste sono alcune delle voci raccolte dalla nostra Anna Marino. Io con lei, Lombardi, vorrei fare un punto vero anche sui numeri, perché sentiamo spesso, soprattutto da chi entra occupando abusivamente una di queste case, dice però è con l'ALER che ve la dovete prendere, perché loro hanno una serie di case, cioè la disponibilità di appartamenti, di case c'è, e però non le danno. Come mai questo avviene? Quali sono i numeri effettivi? Guardi, intanto volevo dire che questa accusa che viene rivolta ad ALER è infondata, sarebbe strano che uno avesse case disponibili e non le assegna. La verità è che noi, in base alle norme di legge che dobbiamo osservare, per poter dare in affitto un appartamento dobbiamo darlo in condizioni, diciamo così, standard. Ora stiamo cercando anche di accelerare procedure per dare le case nello stato di fatto, ma bisogna cambiare alcune norme che presto saranno anche pronte. Quindi I numeri veri poi sono questi, si parla di 8.000, ma in realtà l'ALER ne ha solamente, si fa per dire solamente, 4.300-4.400 che deve sistemare. Con l'approvazione del piano della regione che viene fatto a fine anno sarà possibile sistemare tutto, naturalmente non subito, con i tempi necessari, quindi questo potrà reimmettere nel circuito tutte le nostre proprietà. Poi ce ne sono 3.000 che sono di proprietà del comune, perché qui molto spesso non si capisce che anche il comune di Milano è proprietario di 30.000 case, quindi a volte si confonde case del comune, case dell'ALER. Noi ne abbiamo 4.500, ma il comune ce ne ha 3.000 che sono vuote, insomma, ecco, questo qui per la verità dei fatti è un dato, capisce? L'importante sì. È mettere, noi siamo consapevoli di questa necessità, le dobbiamo mettere tutte quante possibilmente in circuito, perché questo elimina pure in radice il problema delle occupazioni. Sì. Però sa, dove ci vogliono centinaia di milioni quanta, di euro? Quanta gente c'è in lista d'attesa Lombardi? Perché lei dice reimmettiamo 4.300 abitazioni, adesso non so in quanto tempo, quanto ci vorrà, un anno, due anni, adesso non lo so, reimmettiamo 4.300 abitazioni, magari anche meno, lo speriamo, però ma quanta gente c'è in lista d'attesa? La lista di attesa è 10 volte i numeri che abbiamo, quindi quando la gente si lamenta la casa 10 volte, cioè mi stai dicendo certo. Quante persone? Quelli che hanno un'aspettativa generica di avere la casa popolare, ma saranno alcune decine di migliaia, almeno 20.000, guarda, almeno 20.000. Quindi voglio dire che è chiaro che c'è una disparità fra quella che è l'aspettativa di chi vuole la casa popolare e le disponibilità, perché le disponibilità sono molto più limitate. E quindi ci vuole un piano di edilizia popolare, evidentemente. Ecco, poi naturalmente per soddisfare tutte le domande ci vorrebbe anche un incremento dell'offerta di alloggi popolari che si può ottenere solamente con la costruzione di nuove case. Quindi voglio dire che quando si sente la gente che dice io occupo la casa, adesso che sono dentro dammi la possibilità di regolarizzare, questo però naturalmente porterebbe ad un incremento ulteriore delle occupazioni, quindi è una cosa che come linea aziendale noi non possiamo, diciamo, consentire. Ecco. Grazie Gian Valerio Lombardi, presidente dell'ALER, che è l'azienda regionale che si occupa delle case popolari, e saluto Luciano Nobili, vice segretario del Partito Democratico a Roma, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Regge fino. Allora, primo elemento, parliamo del sindaco Ignazio Marino. Ieri è intervenuto, come i nostri ascoltatori ormai sanno, in aula, in Campidoglio, si è difeso, ha detto pago le multe, e però ci interessa più il fronte politico e il rapporto con il vostro partito, che mi sembra che al momento non sia soddisfacente. Da quel che si è capito, Marino ha proposto una sorta di rimpasto soft, cambiare 2-3 assessori, qualcosa di questo genere, mentre dal partito veniva la richiesta di un segnale di rottura più forte. Siete soddisfatti o no? Allora, punto 1, molto rapidamente, questione multe, ne abbiamo parlato fin troppo, 10 giorni fa quando questa vicenda è esplosa, proprio dai microfoni di Radio 24 avevamo consigliato al sindaco Marino di chiudere la questione pagando queste multe e per affrontare i nodi invece della città, l'ha fatto con qualche giorno di ritardo, meno male, ci lasciamo questa questione anche di cui si è parlato anche troppo alle spalle, possiamo affrontare le questioni aperte in città. Il PD non ha richieste di poltrone o di nomi da fare al sindaco Marino, il PD si interroga sul fatto che dopo un anno e mezzo di amministrazione abbiamo un serio problema di interlocuzione con la città e di problemi irrisolti, non certo creati in quest'anno e mezzo, ma irrisolti e aggravati anche in quest'anno e mezzo, che dobbiamo affrontare con decisione per rincrociare il consenso dei romani. Per farlo crediamo sia opportuno in questo momento dare il segno di una vera e propria ripartenza. Poi non è questione il vice sindaco, gli assessori, quanti cambiarne, quanti mantenerne. Il problema è che non c'è bisogno, secondo me, secondo noi, in questo momento di una sostituzione di un singolo assessore, qui non si tratta di penalizzare nessuno, c'è bisogno di dare il senso, di dire alla città abbiamo affrontato 15 mesi difficili, adesso intendiamo aprire una fase 2 e questa fase lo facciamo anche simbolicamente con una ripartenza vera e propria. E se non cambia in maniera decisa salta tutto, cioè salta la legislatura, Nobili? No, io questo lo spero che si possa in ogni modo scongiurare, sarebbe un errore. Su questo c'è una sintonia, su questo e sulla situazione c'è una sintonia totale tra il Partito Democratico a livello nazionale e a livello romano. Le cose migliori che questa amministrazione ha fatto in questo anno e mezzo di governo della città sono cose che dispiegheranno i propri effetti positivi nei prossimi 2 o 3 anni. Penso al piano di rientro dal debito accumulato in tanti anni della città, o penso per esempio a operazioni come quella chiusa ieri sul Teatro dell'Opera. Queste cose molto positive che sono state fatte hanno bisogno di essere raccontate ai romani, hanno bisogno di tempo per fornire effetti positivi. Per questo sarebbe utile che questa amministrazione continuasse per il meglio. Noi crediamo che sia il momento di fare un check e di ripartire con rinnovata forza. Però ripeto, mi sembra che il sindaco non sia tanto disponibile da questo punto di vista. Ma io questo credo che si avvierà un'interlocuzione nei prossimi giorni, io credo che questa sia la cosa giusta da fare, non lo crediamo e speriamo, crediamo che il sindaco sia disponibile a trovare la soluzione più giusta, quindi, innanzitutto nel suo interesse e nell'interesse dell'amministrazione. Ripeto, non si tratta di nomi o di poltrone, ci sono persone molto in gamba nella squadra del sindaco Marino, quindi, il problema è dare anche il segno di un cambiamento di rotta. Quindi a fine legislatura ci arriva, in sostanza? Ma io me lo auguro, ce lo auguriamo. Grazie Luciano Nobili, vice segretario del Partito Democratico a Roma, le auguro buona giornata. E, due notizie, la prima riguarda la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, ebbene Valerio Giuseppe Fioravanti e Francesca Amambro, gli ex NAR condannati, sono stati anche condannati dal Tribunale Civile a risarcire danni per 2 miliardi 134 milioni alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Interno. L'altra notizia, che è un'altra notizia di una condanna di tutt'altro tipo, riguarda Gaspare Spatuzza, che è stato condannato a 12 anni per la strage di Capaci, nella quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e la scorta. A Spatuzza è stata riconosciuta l'attenuante speciale per i collaboratori di giustizia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sciopero generale di CGIL UIL il 12 di dicembre, la CISL non ci sta mai valutata come opzione, il ministro Poletti per questa agitazione dice non ci sono motivazioni. La strage di Bologna, Fioravanti e Mambro condannati anche a risarcire danni per 2 miliardi alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Interno. Israele inizia a reagire dopo l'attacco di ieri ad una sinagoga, demolita a Gerusalemme la casa del palestinese che investì e uccise 2 pedoni. Resta la tensione alta intorno alle occupazioni abusive a Milano, bomba carta contro una sede dell'ALER, l'agenzia regionale per le case popolari. Abbiamo già venduto 6 milioni e mezzo di biglietti nel mondo, lo ha dichiarato poco fa l'amministratore delegato di Expo 2015, Giuseppe Sala. La borsa. Borse in diretta. Borsa che oggi è positiva, più 0,9% il FTSE MIB, più 0,8% il FTSE All Share, positivo anche il resto d'Europa, 0,5% di guadagno per Parigi, lo 0,6% per Francoforte, Londra in calo in realtà dello 0,04%, Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno. A cosa dobbiamo il rialzo dei mercati? Ma le borse erano partite in modo incolore, si sono rafforzate a metà mattina. Milano è sostenuta in particolare dal buon momento del comparto bancario, soprattutto dalle popolari. Il Banco Popolare fra più 3,2%, la Popolare di Milano più 2,2%. Nel settore finanziario bene anche Unipol, SAI più 2,1%. Nel segmento maggiore capitalizzazione va bene anche TOS più 3,6% e sono premiate dagli acquisti anche le Atlantia più 2,6%, ST più 2,3%, mentre ha rallentato rispetto ai guadagni iniziali Finmeccanica che fa più 0,4%. Il gruppo ieri ha confermato di aver ricevuto un'offerta da Hitachi per Ansaldo Breda. Per chiudere segnaliamo l'esordio di oggi in borsa, Rai Way, che registra adesso un balzo del 4,6%. Grazie Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 12 dicembre 1969 è una data impressa nella mente di tutti, il giorno della strage di Piazza Fontana a Milano, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, 17 vittime, 88 feriti. 12 dicembre, quest'anno ricorrono i 45 anni e ricorrono proprio nel giorno scelto oggi dai sindacati per lo sciopero generale. Carlo Arnoldi, presidente dei familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana, buongiorno innanzitutto, e come l'avete presa questa notizia? Beh, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. No, l'abbiamo presa, naturalmente non voglio entrare per quanto riguarda lo sciopero generale, l'abbiamo preso in un modo molto male, perché il 12 dicembre per noi, come lei ha già anticipato, è il 45° anniversario della strage di Piazza Fontana. Fermare il paese proprio quel giorno per noi crea delle difficoltà, perché noi da mesi che lavoriamo per preparare l'anniversario, per preparare le manifestazioni. Di solito facciamo una manifestazione il giorno prima, niente, manca quel giorno lì, e quindi avremo delle difficoltà, perché tanti arrivano da fuori. Io per esempio non abito a Milano, avrò dei problemi a raggiungere, la sera abbiamo un concerto, insomma, cioè, per noi crea dei grossi problemi. Difficoltà operative, ma come dire, dal punto di vista del giudizio la scelta della data è stata indelicata secondo lei? Secondo me è molto indelicata, io non voglio entrare nel perché il giorno 5 avevano attaccato dicendo che il giorno 5 lo facevano per attaccare il ponte di Sant'Ambrogio, però forse il 12 dicembre, che vabbè è una settimana dopo, nessuno si ricorda che il 12 dicembre è l'anniversario della strage di Piazza Fontana, e quest'anno, come diceva lei, sono 45 anni, quindi è anche un motivo che quasi quasi mi fa pensare che Piazza Fontana non voglia più essere ricordata, e questo ci dà molto fastidio. Vi farebbe piacere se la cambiassero questa data? Sicuramente sì, sicuramente sì. Grazie Carlo Arnoldi, presidente dei familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana, le auguro buona giornata. Mi fa molto piacere che un connazionale accompagni questi poveri ragazzini, così ci capiremo meglio. Secondo me voi ci avete le idee un po' confuse. Lei è napoletano, eh? Si capisce dal suo accento. Sono napoletano, si capisce, perché ci avete qualche problema. Ho messo pure il Vesuvio dietro, vedete il Vesuvio? L'avevo scambiato per il Kilimangiaro. Ma voi siete sempre così spiritosi durante la giornata. Non lo sento bene, Moscarello. Piuttosto, avete timbrato i passaporti per i permessi di soggiorno? Ci vuole il visto. E le vaccinazioni no, non ci vogliono. È un brano da La scuola più bella del mondo, è film che è uscito in questi giorni con Christian De Sica e Rocco Papaleo, che ha suscitato una sorta di polemica. Una professoressa indignata ha scritto al Corriere del Mezzogiorno, perché la storia racconta di una scuola toscana che deve accogliere dei bambini per una sorta di scambio culturale. Vuole scrivere ad Accra in Ghana e invece scrive ad Acerra, e arriva questa classe di ragazzini da Acerra, il cui professore è Rocco Papaleo, che è in linea con noi. Buongiorno Papaleo, benvenuto. Buongiorno. C'è questa polemica perché i professori di Acerra lamentano, date una lettura caricaturale della nostra realtà. In realtà, insomma, qua le cose ci facciamo un sedere così tutto il giorno, lavoriamo bene, è peggio del termovalorizzatore, scrive una professoressa. E cosa dice? Ma sono molto dispiaciuto che l'abbiano presa così, e posso anche capire, in fondo, in un momento così difficile, no, per il nostro paese, per l'istituzione scolastica, è chiaro che c'è un po' un malessere, un dente avvelenato, e quindi qualunque cosa può suscitare dolore e dispiacere, e di questo francamente mi scuso, se questo film, che pure ha un'intenzione completamente diversa, non certo documentaristica, è un film comico che vuole essere divertente e fare della caricatura anche un po' la sua arma di divertimento. Accetto, voglio dire, anche questa polemica, e quindi in primo luogo in faccia metto le mie scuse se si sono sentiti offesi. Non posso non sottolineare che di film comico si tratta, e quindi con quella libertà di agire e di usare anche degli stereotipi per provare a fare del divertimento. Poi, se posso dilungarmi ancora un secondo, sì, prego, prego. Metterei un po' una lente di ingrandimento su tutto il percorso del film, quello che questi ragazzini, con la loro energia anche un po' esuberante, il percorso che fanno durante tutto il film, questa energia e il loro comportamento che supera quella specie di stereotipo, discriminazione e